Scuola in controluce. Ho letto i testi, ho cercato di tirare fuori delle idee, i problemi della crisi, la politica, lo stato capitalista e ci ho provato. Speriamo in bene. Ambito socio-economico, articolo di giornale. Quello di Krugman, Zingales, l'unico titolo secondo me su cui svolgere un tema fatto bene, perché l'analisi del testo non era fattibile. Non mi aspettavo sinceramente l'analisi del testo così. Avevo puntato su un D'Annunzio, invece zero. Ho fatto la tipologia B, che sarebbe un tema sulla ricerca sul cervello. No, diciamo che mi ha sorpreso il tema di letteratura, di analisi, perché era su un autore che non abbia mai fatto, è un po' insolito. Puntavo su quello, però ho ripiegato sul saggio breve. E dunque la prima prova è andata. Queste le voci raccolte a Milano dal nostro Riccardo Porcu fuori da una scuola, da un liceo milanese. Allora, stamattina, come vi abbiamo abbondantemente raccontato nel GR, il tema dunque della maturità. Per conoscere nel dettaglio le tracce, vi conviene andare su radio24.it, così ora non mi metto a fare un lungo elenco, peraltro molto noioso. Comunque, fra le tracce, un testo di Claudio Magris, quello a cui facevano riferimento anche i ragazzi intervistati, Gli omicidi politici, i BRICS. Il tema di così com'è non va bene, bisogna modernizzarlo, dice l'economista Alberto Alesina. Altro che modernizzazione, bisogna tornare a quello di una volta. Invece la posizione di Paola Mastrocola, insegnante di liceo a Torino e scrittrice di successo. Allora, fra un attimo sentiremo le due interviste, davvero l'una opposta all'altra. Intanto, se volete dire la vostra, potete farlo mandando un SMS al 349-238-6666. Allora, cominciamo da Alberto Alesina, responsabile Dipartimento Economico Università Harvard, editorialista del Sole 24 Ore. Allora, il tema va modernizzato. Perché il tema italiano significa chiedere allo studente di scrivere pagine e pagine su un argomento dato all'ultimo momento su cui lo studente potrebbe non avere particolari idee. Quindi si chiede agli studenti di inventarsi delle cose su un argomento nuovo senza potersi preparare. Quindi insegna a scrivere pagine e pagine, spesso menando il camperlaia perché non si sa ben cosa dire. Quindi io credo che non insegni né a scrivere e insegni allo studente a cercare di sapere un po' di tutto e non approfondire troppo le cose. E quindi in qualche modo ad essere dei tuttologi, no? Che insomma non è di certo una cosa da insegnare nelle scuole, tanto poi ci si diventa. Sì, l'idea è un po' quella, che uno studente deve essere in grado, senza preavviso, di saper parlare in modo moderatamente intelligente di tutto e di più. E questo è, insomma, la definizione di tuttologo, uno che può parlare di tutto senza approfondire molto nulla. Quindi credo che. E poi insegna anche dal punto di vista di insegnare a scrivere, secondo me insegna l'opposto. Secondo me scrivere bene significa scrivere in modo succinto molte cose, molte idee che si hanno e molte nozioni che si hanno, mentre il tema è un po' l'opposto, insegna a scrivere tante pagine su un argomento di cui magari non si sa molto e quindi appunto a menare il Il camperlaio. camperlaio. E lei come lo modificherebbe questo esame di maturità o perlomeno questa prova d'italiano? Ma bisognerebbe pensarci bene, io quello che faccio fare ai miei studenti è una cosa molto diversa. In alcuni dei miei esami do un libro a cui gli dico di leggersi questo libro, di scrivere 4-5 pagine in cui si fa un'analisi critica del libro, si prende una posizione alternativa rispetto magari alla tesi dell'autore e si fa un commento. Anche se ci sarebbe il pericolo che, insomma, portandosi il libro a casa, potendolo studiare da solo nella propria cameretta, il computer è lì a disposizione per fornire, no, supporti e anche forse i genitori, insomma, come si potrebbe evitare il rischio che comunque poi non sarebbe tutta farina del loro sacco? No, questo è un problema fondamentale, l'idea che se uno può copia è una cosa accettata nella nostra copia o comunque segue delle procedure non permesse, è una cosa molto diffusa che è considerata normale nella nostra cultura. Non è così in altri paesi come per esempio che conosco io negli Stati Uniti medio c'è un codice d'onore in cui è considerata una cosa gravissima non seguire le istruzioni anche a casa. Ovviamente ci sono le eccezioni anche lì, ma è l'eccezione e non la regola. Quindi credo che per arrivare a una soluzione del genere, che io ho proposto in modo anche un po' provocatorio, bisogna prima cambiare un po' questa cultura, ma credo che sia un punto veramente importante questo, perché è un esempio di come seguire le regole anche quando non si è sorvegliati e seguire dei codici d'onore sia una è quella l'educazione civica che andrebbe insegnato agli studenti, non ricordarsi a memoria gli articoli della Costituzione, ma avere proprio nel proprio DNA questo senso del civismo e del codice d'onore. Alesina confonde la tuttologia con la democrazia, ci scrive Angelo da Torino al 349-238-6666. Abolite questo spreco di soldi, 99% di promossi, che selezione si fa? Ci scrive invece Gregorio da Catanzaro. E poi ancora, ragione Paola Mastrocola, Gio da Brescia, docente in pensione. Allora sentiamola, qual è davvero la posizione di Paola Mastrocola, che è insegnante a Torino, scrittrice di libri a volte davvero impietosi sulla scuola e anche sui nostri ragazzi che secondo lei insomma non sanno scrivere, non sanno più studiare. Esame dunque da riformare e da rendere più moderno? Ma no, allora, quando si contrappone vecchio e nuovo sul tema io non sono d'accordo, perché se la novità è il modello anglosassone, americano, fatto di test, siamo proprio fuori strada. La scuola andrà in quel senso perché noi imiteremo l'America, se va bene. Però io difendo fino alla morte il tema che non è il passato, è semplicemente il fatto che continuiamo a riconoscere importante il pensiero e la strutturazione del pensiero, quindi la scrittura. Anzi, io ripristinerei il tema come era, ed era il titolo e il foglio bianco, non 8 pagine di fotocopie. Quindi titolo, foglio bianco e tutto resta al ragazzo, insomma, che deve da un lato aver studiato, perché molto spesso si chiedono proprio anche delle nozioni, no? Se si studia Ungaretti o certo, piuttosto che, e dall'altro la capacità di scrivere magari qualcosa che vada oltre i 140 caratteri esatto, di Twitter e di un SMS? Esatto, ma certo, ma è la prova più bella che un ragazzo possa sostenere, è la sfida vera, cioè dimostrami che cosa sei, che cosa pensi, che cosa hai fatto in questi anni, che libri hai letto, che pensieri hai avuto, insomma ti do un foglio bianco e sta a te dirmi chi sei. Ma secondo lei i ragazzi, che lei ben conosce perché insegna, sì, sono ancora in grado di affrontare una prova come questa? Sono in grado di affrontare il famoso foglio bianco di cui parlava poc'anzi? Sempre meno, perché noi li abbiamo educati a non farlo più, questo è ovvio, però nel momento in cui glielo si fa fare ancora in modo continuativo, io insegno il biennio dal primo giorno del biennio fino all'ultimo, faccio fare temi con solo il titolo, beh, allora alla fine poi lo sanno fare, come? Non sono mica stupidi. Basta sollecitarli, basta spingerli. Ha visto le tracce di questa mattina? Si parla di tracce innovative perché usciamo dai soliti autori, Ungaretti, Pirandello, ma Montale. Ma anche qua abbiamo questa rincorsa al nuovo a tutti i costi. Sì, sono bellissime, come sono anche belli i temi su Montale, Pirandello, eccetera. Cioè il tema, la traccia è un pretesto. Io ti do un titolo, ma solo perché tu scriva. Poi scrivi quello che vuoi, ecco, io valuterò appunto la maturità del tuo pensiero, ecco, per me è assolutamente irrilevante il titolo di un tema. Davvero due posizioni distanti, quelle di Alberto Alesina, che insegna all'Università Harvard, e invece la nostra Paola Mastrocola, davvero due posizioni molto distanti, e insomma ci piacerebbe continuare a parlarne con voi anche sulla nostra pagina Facebook di Scuola in Controluce. Foglio bianco e pensieri, assolutamente sì, ci scrive un nostro ascoltatore al 349-238-6666. Di solito sono molto tollerante, invece ci scrive un altro ascoltatore, ma ultimamente al Ministero hanno avuto qualche problema fra le date dei test universitari e temi di maturità. Poi ancora, scrivere e esprimere pensieri, tutte non firmate, quindi non so chi ci stia scrivendo, non sono d'accordo, ha detto la vita poi non è economia. Come spiega allora perché ci troviamo in questa situazione? Questi erano i saluti invece di Massimo da San Gimignano. E si conclude qui questa puntata di Scuola in Controluce, che come tutti gli altri programmi potete riascoltare andando sul nostro sito radio24.it. Grazie a Riccardo Porcu per le interviste. Ragazzi, fuori dalle scuole, un saluto da Maria Piera Ceci. Scuola in controluce.